modo così estensivo e intensivo a questa nostra occasione di lavoro, perché davvero io non mi aspettavo che un tema in fondo così arido come questo potesse trovare tanto riscontro. Tanto riscontro, devo dire, anche da parte dei relatori, e anche qui forse più del dovuto per quanto mi riguarda, visto che nella previsione dell'ordine del giorno per oggi pomeriggio erano state appunto preparate tre relazioni, due delle quali sono già state fatte, in modo tale che a me non resta nulla da dire in pratica. Cioè il tema che io mi ero ritagliato è un tema che si è andato a sovrapporre in maniera particolarmente piena con le ottime relazioni che hanno tenuto la signora Garbari e la signora Mazzoli. Una dal punto di vista della lettura della legislazione amministrativa, l'altra più dal punto di vista della lettura storico-costituzionale. In entrambe il problema del significato della Selbstverwaltung austriaca nel corso dell'Ottocento e soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento è stato affrontato come io certo non saprei fare meglio. D'altra parte, la mia impressione, e anzi forse l'ipotesi di lavoro da cui ero partito insieme con gli altri che mi hanno aiutato a organizzare questo convegno, l'ipotesi di lavoro, di partenza, forse era proprio la seguente, cioè che la Selbstverwaltung, nella molteplicità dei suoi significati, rappresenta una delle strutture portanti, principali, dello sviluppo costituzionale austriaco durante i due secoli che noi abbiamo esaminato ieri e oggi. E allora credo che il convegno non poteva terminare se non con le due relazioni che abbiamo appena sentito, proprio perché mi pare che alla fine del lungo processo di Staatsverwaltung dell'Austria si ripropongono gli stessi problemi, seppure naturalmente in modo adeguato alle mutate condizioni storiche, che si erano posti all'inizio di questo processo. Ora, io credo sia necessario, e comunque a me serve tentare di dare una valutazione complessiva dei lavori che sono stati compiuti in questi due giorni, tenendo come punto di riferimento principale appunto il problema dell'autoamministrazione, della Selbstverwaltung. E allora direi che personalmente accetto come criterio ermeneutico privilegiato di fondo il criterio che è stato così ben delineato, presentato dal professor Béranger, della diarchia che alla fine del XVII secolo e nella prima metà del XVIII caratterizza la situazione costituzionale austriaca. Questo criterio della diarchia fra un polo monarchico e un polo ständisch, cettuale, che peraltro è un criterio, mi pare, in grande misura analogo al criterio più generale della storia costituzionale tedesca del XVII-XVIII secolo, cioè il criterio del dualismo costituzionale, questo criterio, dicevo, mi pare debba essere però in qualche modo arricchito oppure complicato mediante il ricorso a un altro criterio che pure è stato qui richiamato e anche poco fa dalla signora Mazzol, cioè l'ormai vecchio criterio di Brunner, di Otto Brunner, che definisce sinteticamente la situazione costituzionale propria dell'Austria in tutto questo periodo come una monarchische Union von Ständestaaten. Anche qui, se vogliamo analizzare questa espressione così precisa e così rigorosa che Brunner impiega, in cui nessun termine è casuale, ma tutti sono legati fra loro da una logica interna molto precisa, scopriamo che esiste, che viene indicato, che viene posto in luce un ulteriore momento dialettico di contrapposizione, che però non è solo tra ceti da una parte e monarca dall'altra, ma è anche tra unità imperiale complessiva da una parte e unità politiche settoriali dall'altra, dove il primo momento, cioè l'impero, tende costantemente a acquisire e a definire in modo compiuto la propria esclusività, mentre dall'altra le singole unità politiche settoriali tendono a impedire che questo processo di unificazione avvenga e tendono quindi a mantenere, a difendere, a preservare le loro singole specificità. Allora si tratta di due dualismi che si incrociano fra loro. Le variabili quindi raddoppiano ed ecco che il complesso di contraddizioni che caratterizza la situazione costituzionale austriaca, in questo modo si presenta come più facilmente adattabile al mutamento dei tempi. L'aumento, cioè, delle variabili costituzionali su cui riposa lo sviluppo storico dell'Austria consente a quest'ultimo sviluppo di potersi muovere e di poter mantenere la propria contraddizione interna anche nel corso dei due secoli così tormentati come sono quelli che noi qui esaminiamo. La realtà è, mi pare, che questa doppia tensione permane irrisolta in entrambi i suoi termini, il che da una parte dà continua vivacità al quadro costituzionale austriaco, che non è mai possibile definire semplicemente, ma in modo riduttivo, come un quadro depresso o arretrato, perché in realtà contiene sempre dentro stimoli di avanzamento, di mutamento, di trasformazione che appunto non consentono di relegarlo in una zona superata, fuori dalla storia di quest'epoca. Quindi un quadro che è vivace ma che non consente mai di giungere a soluzioni in qualche modo definite. In questo senso, ad esempio, per saltare dalla prima relazione, o dalla seconda relazione di Béranger di ieri mattina, alla relazione di Matisse di questa mattina, mi sembra estremamente interessante il suggerimento che Matisse dava sull'esito, sull'esito che gli sforzi di modernizzazione, anche sul piano economico e sociale, oltre che sul piano costituzionale, hanno avuto alla fine dell'Ottocento, nell'impero austriaco, nell'impero austro-ungarico, in un quadro complessivo e complicato di rapporti sociali, di conflitti sociali, che appare difficilmente definibile e che lo stesso Matisse ha potuto approssimare solo mediante il riferimento a questa cosa in fondo così poco definita, così poco chiara, e non solo in Austria, che è il cattolicesimo sociale. Ma d'altra parte, questa vaghezza, questa indistinzione problematica, questa incertezza dei criteri utili a definire quello che dovrebbe essere il momento conclusivo di un processo secolare, bisecolare, e che è passato per tappe gloriose, emerge anche dall'analisi di una teoria politica, ma di una teoria politica condotta sul piano rigorosamente scientifico, qual è ad esempio la teoria politica di un Lorenz von Stein, di cui un po' a tradimento la signora Mazzol ci ha così lungamente parlato, un po' a tradimento perché la consideravo un autore mio, e quindi in questo senso io rimprovero alla signora Mazzol che mi ha tolto tre quarti della relazione. Il che in realtà noi andremo, io cercherò poi brevemente di mostrare come pur nella lucidissima, quasi maniacale pulizia sistematica del pensiero di Lorenz von Stein sul tema non solo dell'amministrazione in generale ma anche dell'autoamministrazione, ci siano delle aporie, delle contraddizioni, delle cose non chiare, non conchiuse, che a mio avviso corrispondono a livello ideologico a quella complessità, permanente contraddittorietà della situazione costituzionale austriaca che ho cercato di indicare come dato strutturale dello sviluppo storico dell'impero in questi due secoli. A mio avviso noi abbiamo da una parte uno Stato che nonostante tutto, che nonostante le più illuminanti elaborazioni teoriche e anche spesso le più concrete esperienze pratiche di attivazione di politica dal centro, uno Stato che nonostante questo non si fa. Abbiamo uno Stato che continua a divenire, a essere in procinto di essere tale, ma che non diventa mai tale. Abbiamo una Staatswerdung, come pure diceva Otto Brunn e come anche noi abbiamo voluto mettere nel titolo del nostro incontro. Permane la diarchia di cui dicevo, rafforzata sempre più nel corso del tempo dalla crescente separazione fra una prevalenza di interessi e di posizioni sociali agrarie da una parte e l'inevitabile emergenza di esigenze di modernizzazione collegate con la trasformazione economica che anche in Austria si compie nel corso del XIX secolo e probabilmente non solo a partire dal 1848, come pure il professor Brauneda ha illustrato stamattina mostrando l'importanza che certi interventi nell'ambito della teoria giuridica del Vormerz hanno avuto nel più generale processo storico-costituzionale dell'impero. Dall'altra parte, accanto a questo Stato che mi pare non si fa mai, non diventa mai Stato fino in fondo, dall'altra parte abbiamo un ricorso costante alla Selbstverwaltung, all'autoamministrazione, all'amministrazione locale, come punto d'incontro che non è mai definitivo perché può sempre mutare la propria dislocazione, di temi scottanti, quale quello delle nazionalità, per esempio, quello dei rapporti fra ceti, per esempio, quello dell'alternativa fra città e campagna, per esempio ancora. Proprio questo ricorso all'autoamministrazione consente di far funzionare la macchina, e la diversa dislocazione del punto d'incontro che la Selbstverwaltung ogni volta consente a questa macchina di conservare un'inerzia, di conservare un movimento significativo e importante, cioè tale da rispondere ai bisogni immediati che lo sviluppo sociale e economico impone. Ma questa macchina non diventa mai, io credo, macchina statale. È una macchina senza spirito, come ci hanno spiegato sia Mozzarelli che Merici. Ma è una macchina senza spirito perché è priva sostanzialmente di un baricentro preciso, e perché invece è piuttosto il frutto di un incontro di più baricentri, che rimangono ciascuno con la propria legittimità, ma che devono necessariamente essere rapportati fra loro, collegati fra loro in un sistema di equilibrio, se vogliono appunto che se si vuole appunto che la macchina continui a marciare. La soluzione della Selbstverwaltung, infatti, può servire allo Stato solo se viene intesa in un certo modo. E qui il rimando a Lorenz von Stein è d'obbligo dal punto di vista teoretico. Ma ce l'ha già spiegato la signora Marzol. La Selbstverwaltung per Stein, almeno credo di aver capito così, la Selbstverwaltung per Stein presuppone la Staatsverwaltung. Non ci può essere amministrazione locale al di fuori di una struttura statale articolata, in una sua però preesistente e predata unità, che ha fondamentalmente basi costituzionali. Infatti, per Stein, la Verwaltung non è altro che una lebendige Verfassung. È una Costituzione che vive nella pratica, ma non può darsi senza l'esistenza di quella Costituzione. E la Costituzione è lo Stato, cioè la Selbstverwaltung, in quanto garanzia di difesa della molteplicità degli interessi, dell'esistenza delle diversità o addirittura delle individualità, presuppone che sia garantita, difesa e soprattutto gestita nella pratica l'unità che trova nell'isce della monarchia statale la sua essenza. La Selbstverwaltung invece non serve allo Stato ed è anzi contraddittoria all'istanza statale se diventa il punto di compromesso fra le contraddizioni che continuano a minare il tessuto economico, sociale, politico-costituzionale dell'unità politica che ci interessa, in questo caso della monarchia asburgica. Qui si potrebbe aprire una parentesi relativamente a una a un fenomeno probabilmente interessante dal punto di vista politologico che si compie nella seconda metà dell'Ottocento, allorché il sistema imperiale asburgico, in modo abbastanza accelerato, riesce a ridurre la complessità che presentava fino a quel momento ai suoi margini, alla sua periferia, risolvendo il problema dell'Ungheria da una parte e perdendo dall'altra i possedimenti italiani, acquistando in tal modo come sistema, quasi come sistema cibernetico, una sua maggior compattezza all'interno, il che consente, dovrebbe teoricamente consentire effettivamente, un incremento delle capacità di intervento e di regolamentazione, soprattutto sul piano organizzatorio e sul piano amministrativo. Infatti, mi pare, è proprio negli anni 60 e dagli anni 60 in poi che il problema del funzionamento dell'amministrazione trova una sua, nell'impero, soprattutto nei territori ereditari, trova una sua soluzione convincente. E la signora Garbari giustamente osservava che il caso trentino, in questo senso, può essere indicativo, in quanto simultaneamente il problema della Selbstverwaltung nella città, distretto di Trento, consente da una parte di alleggerire le tensioni di tipo, diciamo così, nazionalistico, eccetera. Dall'altra parte consente anche di stimolare, fare proprio da propellente per un'attività e un impegno di tipo economico-sociale estremamente importante per Trento in quell'epoca. Tant'è che appunto la Garbari stessa parla per quest'epoca di una specie di miracolo economico trentino. Sicuramente si può parlare per quest'epoca della costituzione di un ceto dirigente, se non di una classe sociale, dotato di certe sue caratteristiche di omogeneità e di, quindi, identità. Ecco. Ora io direi che a questo punto ho praticamente finito di fare questa mia specie di questo riepilogo, insomma, un po' molto personale, naturalmente, dei risultati del convegno. Continuo solo perché l'arrivo della macchina da presa stimola il mio narcisismo e quindi rimango qui ancora 5 minuti a parlare. Il problema che però si potrebbe, su cui vorrei insistere, perché è un problema che in realtà risulterà dalla relazione che poi apparirà a stampa, insomma, è quello relativo alla, duplicità che il sistema della Selbstverwaltung nel corso dell'Ottocento mi pare che presenti rispetto ai due livelli del Land o dei Länder da una parte e invece dei Gemeinde o delle Gemeinde dall'altra. Questo mi sembra che sia un problema cruciale su cui meriterebbe e merita di approfondire la ricerca, e io spero davvero di poterlo fare. E certo, da questo punto di vista, la relazione del professor Melville sul significato persistente della Grundherrschaft in una zona dell'Austria, tra l'altro particolarmente progredita e progressiva come la Boemia, e ci ha appunto intrattenuto. La impressione mia è che a questo punto entra in gioco di nuovo una continuità rispetto alla situazione costituzionale dell'impero nel XVIII secolo, agli inizi del XVIII secolo. Ecco, cioè io ritengo possibile collegarmi ai contenuti, a un contenuto, a un'idea, a una proposta sviluppata dalla professoressa Gherardi nella prima relazione che io stesso ho letto ieri mattina, allorché la Gherardi stessa, richiamando peraltro nuovamente Béranger, parlava dell'ellisse Landesfürst Landstände e appunto della diarchia principe ceti, che impediva all'Austria del primo Settecento di aderire pienamente al modello assolutistico. A me pare che, nonostante tutto, la situazione non sia molto mutata due secoli dopo. L'ellisse, a mio avviso, permane ed è rintracciabile anche a livello di amministrazione locale, che, come ho detto, è ora la via privilegiata di soluzione politica dei problemi. Ricordiamo che, secondo i principi dello Stato di diritto, la Selbstverwaltung occupa davvero il ruolo di pilastro in termini non solo di funzionamento della macchina statale, ma anche di legittimazione del potere dello Stato. L'articolo 1 della legge comunale provvisoria del 17 marzo del 49, come era citato peraltro nella redazione del signor Garbari, recita così: il pilastro basilare dello Stato liberale è il libero comune. La differenza però è che ormai i poli dell'ellisse non sono più il principe da una parte e i ceti dall'altra, ma livelli di interesse, ceti, forse classi diversi, che cercano di difendere le loro posizioni materiali sul piano dell'organizzazione del potere, quindi anche sul piano dell'amministrazione. L'importanza dell'amministrazione, d'altra parte, va rivendicata e sottolineata non solo per i casi di ritardata statualità, come quello tedesco, italiano e per l'appunto anche austriaco, ma anche per gli antichi stati come la Francia e la stessa Inghilterra, che proprio nel corso dell'Ottocento, come ha magistralmente dimostrato tanti anni fa Otto Hinze, vede stravolto il suo sistema di self-government, che viene recuperato a una pesante capacità di intervento e di gestione da parte del centro. E non è un caso che proprio l'ideologia del self-government, attraverso la prestigiosa opera di traduzione e anche in qualche modo di divulgazione ideologica di Rudolf von Gneist, domini tutta quanta la problematica della Selbstverwaltung in terra tedesca nel corso dell'Ottocento. E noi sappiamo che lo stesso Stein prende le misure con il self-government inglese attraverso Gneist per elaborare la propria teoria della Selbstverwaltung. E noi sappiamo che bisognerà arrivare solo a Redlich per avere una interpretazione, una reinterpretazione del self-government inglese sottratta alla, come dire, appunto, ideologizzazione che Gneist ne aveva fatto. Quindi questo è un fatto, secondo me, che bisognerebbe approfondire. Qui è stato un pezzo. Ora, il problema naturalmente che rimane da, a cui rimane da dare risposta è quello di individuare dove si radichi quello spirito modernizzante, industrialista e bisognoso di protezione economica e giuridica che è presente anche nell'impero nella seconda metà dell'Ottocento. Mi sembra che sia fuori di dubbio che questo luogo di radicamento sia da individuare nelle città, ma anche qui noi ci imbattiamo in una ulteriore struttura. Ecco, è banale dirlo, però effettivamente in tutte le relazioni che sono state tenute ieri e oggi noi a un certo punto abbiamo incontrato questo problema delle città, che o venivano sottovalutate oppure non venivano abbastanza valutate oppure venivano sopravvalutate, ma che comunque costituivano costantemente una specie di punto di riferimento, punto di scontro rispetto a una situazione, diciamo così, precostituita, no? Che era la situazione appunto tipica della struttura di potere imperiale, la struttura, la situazione della campagna e non della città, la situazione agraria, ecco, e non della città. Questo è un punto importante. Evidentemente nella seconda metà dell'Ottocento questo discorso della città diventa un discorso fondamentale, non se ne può più prescindere. Ecco, Merigi stamattina diceva che, oggi dicevano, stamattina, che per l'Italia invece l'urbanesimo era stato un fenomeno più grande, e su questo discorso delle città come momento di modernizzazione della situazione italiana forse giocava anche, basava anche una sua appunto la giustificazione, fondava la giustificazione della differenza, ecco, di avanzamento della situazione lombardo-veneta rispetto a quella austriaca. Questo con riferimento al Settecento o al primo Ottocento. Nella seconda metà dell'Ottocento, anche per l'Austria, la città rappresenta un dato di fatto evidentemente incontrovertibile e centrale. E mi pare che infatti è con riferimento all'Austria che si sviluppano le capacità di innovazione sul piano dell'intervento e della gestione politica attraverso appunto lo strumento della Selbstverwaltung. Ma in che modo? Ecco, la risposta a questo problema secondo me dà un po' la chiave di soluzione di un po' di tutta la questione. Mi pare che nel sistema di autoamministrazione austriaco ci sia senz'altro una spaccatura che parla un po' da sola, ecco, nel senso che appunto a partire già dalla legge del 1800, cos'era, 19, non mi ricordo più la prima, ecco, 19, noi assistiamo alla previsione, no, di una tipologia relativa ai comuni piuttosto articolata. Questa tipologia comunque prevede da una parte l'esistenza di città industriali, diciamo così, o città economicamente progredite, città capitali, città capoluoghi, dall'altra parte invece prevede l'esistenza di altri nuclei comunali che poi nella legislazione successiva saranno riunificati perché non ci sarà più tutta questa articolazione così spinta. Quel che interessa però a me mettere in luce è che c'è una distinzione fra la città come luogo di svolgimento dell'attività economica, quindi come luogo anche di formazione di posizioni sociali ben precise, e dall'altra parte invece c'è la individuazione di comuni, di intesi semplicemente come raggruppamenti fondati sopra interessi economici e sociali di tipo tradizionale. Allora, siccome le città capoluogo rimangono relativamente poche fino alla fine, il problema della polverizzazione dei comuni di cui parlava la signora Garbari evidentemente riguarda le piccole città, i piccoli raggruppamenti. La domanda che io mi faccio a questo punto è se e in che misura questa polverizzazione sia legata e sia funzionale alla posizione, diciamo così, egemonica del centro dell'impero, cioè di Vienna, oppure piuttosto alle richieste, alle esigenze di autonomia dei singoli Länder. Questo è il problema che a me veramente sta a cuore. Io ho l'impressione che in questo momento, attraverso la legislazione comunale austriaca, noi possiamo individuare una specie di alleanza o comunque di punto d'incontro da una parte tra Land, tra provincia, e piccoli comuni polverizzati, a base rurale, e spesso, come diceva la Garbari, incapaci di gestirsi e quindi inevitabilmente sottoposti al diretto intervento da parte del Land. Quindi primo polo. Dall'altra parte invece, secondo polo, una specie di alleanza oppure di collegamento nelle cose probabilmente più che consapevole fra le città distretto e che cosa? E Vienna. E allora mi conforta la signora Garbari, che è più esperta di me in queste cose, perché anche lei dice che può essere così. Ma allora in questo modo davvero noi abbiamo una ennesima camaleontica riproduzione di questa diarchia, di questa, ecco, io credo che la storia dell'Austria dal punto di vista costituzionale, letta attraverso questo filtro della Selbstverwaltung, tutto sommato, per quel che capisco io, finisca qui. Quindi vi ringrazio ancora di cuore e spero di rivedervi ancora un'altra volta. E che, e qui esprimo un desiderio, diciamo, anche egoistico, una richiesta di tipo egoistico, auspico non riguardi soltanto le relazioni di oggi pomeriggio, cose naturalmente giustissime in primo luogo, ma una discussione che costituisca anche un po' una proposta, una provocazione per ulteriori incontri su questa tematica. Io credo che questo convegno abbia messo tanta carne al fuoco da far venire voglia di sviluppare singoli aspetti, singoli temi in altri incontri, e quindi io penso che questo convegno possa essere capace, ecco, di produrre, di generare una serie di attività anche per i prossimi anni. E questo appunto volevo solo dirlo per avviare la discussione, cioè per chiedere anche interventi di tipo propositivo e non soltanto, come è giusto, riferentesi alle relazioni. Il professor Corsini ha già chiesto la parola. Ecco, prego di dire sempre il nome prima di cominciare a parlare, per la registrazione anche per gli atti, in modo tale che non ci siano confusioni e sovrapposizioni, attribuzioni di interventi diversi. Questa relazione riassuntiva, ma riassuntiva come rimeditazione, non soltanto come rapida rielencazione di temi o di quello che è stato detto, fatta dall'amico Schiera, è veramente consente di corrispondere a questo invito fatto dal professor Prodi, di vedere se per caso non resta ancora qualche altro tema da approfondire. Io direi che, specialmente in questo ultimo punto, quando ha fatto accenno a questo duplice rapporto piccoli comuni, diete regionali, città, città distretti, città con una rilevante autonomia che sconfinava anche nel politico, oltre che nell'amministrativo, da parte delle città con Vienna, che è documentabile anche sul piano degli avvenimenti storici, non soltanto come vero, ipotesi di rapporti amministrativi. Dicevo un momento fa alla professoressa Garbari, per Trento basterebbe pensare a quella che è stata la questione delle ferrovie e la questione dell'università italiana, vero, che ha trovato proprio la presentazione di un disegno di legge nel 1904 da parte del governo presentato direttamente al Reichstag da parte del governo viennese. Questo però, secondo me, ci induce, e qui bisogna veramente andare avanti con gli studi, più forse sul piano dello sviluppo storico che su quello della meditazione delle dottrine delle strutture amministrative, su quella che è la differenza tra la Selbstverwaltung come autoamministrazione e altri centri di potere, come erano le diete regionali, che oltre ad essere centri di autoamministrazione erano anche centri di autogoverno. È stato detto questa mattina con una frase che mi ha veramente entusiasmato, l'ho anche già ripetuto, dal professor Matisse, che il problema esistenziale dello Stato asburgico è stato il problema delle nazionalità. C'è un altro problema esistenziale ed è proprio quello del rapporto fra governo centrale e questi governi regionali, governi dei Länder. E bene ha fatto, a mio avviso, la professoressa Garbari quando all'inizio ha accennato al fatto che le strutture amministrative dipendono, oltre che dalle concezioni politiche, dalle ideologie che in un determinato momento storico si presentano, anche da quello che è stato il processo di formazione dello Stato. Un processo di formazione che, in particolar modo per gli stati dinastici, ha una rilevanza eccezionale. Direi che Vienna, o gli Asburgo, o la dinastia, la corte, questo potere che si era mantenuto ben preminente fino alla fine, anche fino al crollo dell'impero, non è mai riuscito a superare definitivamente quei poteri che storicamente nelle Länder che è venuto via via, o nei regni e nei paesi che è venuto via via conquistando nei secoli, era già presente. I Länder finiscono per inceppare a un dato momento la libertà dello Stato nel suo tentativo di sviluppo in senso moderno e in senso liberatorio anche dalla presenza di vischiosità cetuali, come si usa dire, e di vischiosità anche di natura economica. E io ho sentito, anche se ero fuori, con molto interesse la relazione della professoressa Mazzol. Mi pare che accentuerei proprio, per la trattazione di questo tema da approfondire, cioè le autonomie delle Gemeinde e l'autoamministrazione e l'autogoverno dei Länder, accentuerei quello che a mio modestissimo avviso, non posso considerarmi un esperto della storia austriaca, forse vado ad orecchio, ma a mio avviso è il momento, è il momento della verità. Ecco, ed è per me il 1873. È la riforma elettorale del 1873, il passaggio dal federalismo al centralismo, che non è il passaggio ad un centralismo di natura amministrativa, è il passaggio a un centralismo di qualità legislativa, cioè il tentativo di sottrarre potestà legislative ai Länder per condurle ad una fase liberatoria delle forze progressiste che si trovano soltanto nel grande Parlamento che rappresenta tutto lo Stato e tutta la popolazione tutte così come era eletta con i sistemi d'allora, ma sicuramente non più cettuale come era invece la composizione, vero, delle diete regionali. Ed è non l'ultimo momento, ma il momento, poi ho subito finito, il momento più significativo in cui i Länder, le regioni, recalcitrano di fronte a questa nuova legislazione che proviene dal Parlamento, che è sicuramente più progressista. Adesso su questi termini però, scusate, lo adopero anch'io così, ma ci sarebbe molto da discutere. Comunque avevo una legislazione sicuramente più progressista, più libera, ero di valore generale per tutto lo Stato, e invece di estrema limitazione di quelli che erano i poteri politici delle diete regionali. L'esempio è lì chiaro e preciso: la legislazione in materia scolastica delle leggi del 1868 e la legislazione in materia scolastica civile, vero, di rapporti fra le confessioni e via dicendo, del 1874. Quello è il momento drammatico. Non è che le diete poi rinuncino, anche se da quel momento hanno perduto molto del loro potere di autogoverno e rimangono invece come centri di autoamministrazione. Non rinunciano del tutto, però insomma ormai hanno le ali tarpate, vero? Che non rinuncino del tutto, ma non è mica per fare storia di casa nostra, ma che non rinuncino del tutto, basta pensare al fatto che, scoppiata la guerra nel 1914, si riunisce la giunta, la dieta regionale di Innsbruck, cittadini di lingua tedesca, fedelissimi allo Stato asburgico e all'imperatore, eccetera, e protestano perché è stato emesso il bando di leva in massa, perché questo, vero, secondo la Costituzione, antecedente alla patente del 23 febbraio del 1816, spettava di diritto, vero, alla dieta regionale, la chiamata degli armati, e non spettava all'imperatore, vero, non spettava all'imperatore, al governo centrale. È un esempio finale, ormai siamo sulla china del tramonto, vero, ma però è un esempio estremamente significativo di come siano continuate fino alla fine queste resistenze delle diete regionali a voler avere ancora il loro autogoverno, non soltanto autoamministrazione. Ecco, per me il tema, che coincide un poco con quello, vero, indicato prima dal professor Schiera, sarebbe proprio quello di vedere questi limiti e questi rapporti tra Gemeinde, va bene, vero, e diete regionali. Domando scusa se sono stato un po' lungo. Anzi, grazie. Altri interventi? La professoressa Mazzol è fuori per un'intervista, ma rientra subito e domani... Ecco, sì, volevo solo dire che la Mazzol era fuori un minutino per un'intervista, ma ritornerà dentro subito e quindi potrà essere coinvolta nelle... Ecco. Ich glaube auch, dass das Verhältnis Gemeinde, Land, Gesamtstaat ein ganz zentrales Thema der politischen und Verfassungsentwicklung etwa ab 1860 darstellt. Dazu Stellung zu nehmen ist unmöglich, weil ich so glaube, dass das auch das Thema einer eigenen Tagung wäre. Ich möchte nur zwei Fragen aufwerfen. Im Neoabsolutismus hätte der Gesamtstaat, die Monarchie, doch augenscheinlich die Möglichkeit gehabt, mit diesen vom gesamtstaatlichen Standpunkt aus besehen, überkommenen Länderstrukturen aufzuräumen. Man muss sich ja überlegen, dass die Länder völlig ungewichtig waren. Beispielsweise Schlesien oder Vorarlberg waren überhaupt nicht zu vergleichen mit Böhmen oder Görz, Gradisca, auch nicht zu vergleichen etwa mit Niederösterreich. Und es stellt sich für mich die Frage, warum gerade im Neo-Absolutismus diese Länder und auch mit diesen Ländergrenzen, die beispielsweise in Schlesien ja wie ein Emmentaler Käse auch noch durchlöchert und unpraktisch für die Verwaltung waren, warum diese Länder bestehen, diese Länder man hat bestehen lassen. Die provisorische Antwort, die ich darauf finde, ist die, dass von der monarchischen Konzeption des Staates, der im Neoabsolutismus ja ganz bewusst und ausschließlich aufbaut auf dem Prinzip der monarchischen Legitimität, diese Länder, das klingt jetzt sehr ketzerisch, eine Notwendigkeit sind. Denn es ist das Wesen der monarchischen Legitimität, die Herrscherrechte zurückzuführen auf alte Rechtstitel. Etwa nicht zu sagen wie Napoleon, ich bin ab 1804 Kaiser, sondern eben Privilegien zu finden, die uralt sind, desto älter, desto besser. Wenn das der Kaiser von Österreich macht, und er hat es gemacht, dann kommt er unweigerlich auf Länderprivilegien. Das heißt, seine Rechtsstellung im Sinne der monarchischen Legitimität beruht auf Länderprivilegien, die er nicht entbehren kann. Daher vermutlich auch zu Beginn des Neoabsolutismus Grundsätze, ein Patent, das überschrieben ist mit Grundsätze über organische Einrichtungen und jetzt nicht im Kaisertum Österreich, sondern in den Ländern des österreichischen Kaiserstaates. Das sehe ich also auch als Desiderat der Forschung an, danach zu fragen, welches Interesse diese monarchische Konzeption an diesen überkommenen Ländern hat. Der zweite Problemkreis, zu dem ich ganz kurz etwas sagen möchte, ist das Verhältnis Selbstverwaltung-Gesamtstaat. Ich bin vollkommen der Meinung von Professor Skierer, dass man von einer Selbstverwaltung nur sprechen kann im Hinblick auf einen existierenden Staat. Selbstverwaltung auf lokaler Ebene, die Gemeinden, aber auch Selbstverwaltung der Berufe, etwa in den Handels- und Gewerbekammern. In Österreich stellt, und zwar im Hinblick auf einen Staat, der anders konzipiert ist als die Selbstverwaltung. Also insbesondere dann, wenn es sich um einen monarchischen Staat handelt, mit einer geringen Volksrepräsentation. Als Gegensatz dann eben dazu die Selbstverwaltung, die keinen Monarchen kennt, die aus dieser Gruppe heraus erfolgt. Und in Österreich stellt sich daher nach 1918 tatsächlich folgendes Problem, nämlich die Frage, was sollen eigentlich jetzt im demokratisch-republikanischen Staat noch die Gemeinden? Unsere demokratische Republik verwirklicht ja jetzt die Volkssouveränität. Warum brauchen wir jetzt noch lokale Selbstverwaltung in den Gemeinden oder in den Ländern? Das ist ein Problem, vor dem die Verfassungstheoretiker 1918 bis 1920 stehen. Dieses Problem wird dann auch von dem maßgeblichen Verfassungstheoretiker Kelsen so gelöst, dass er sagt, diese überkommene Selbstverwaltung ist überflüssig. Wir machen ein ganz ein neues Modell, nämlich wir gliedern den Staat in mehrere Ebenen, in die Ortsgemeinde, die Gebietsgemeinde, das Land, auch als Gemeinde verstanden, und dann schließlich den Gesamtstaat. Und auf jeder Ebene haben wir demokratisch gewählte Repräsentativorgane. Keine Selbstverwaltung mehr, sondern eben eine nach Ebenen gestaltete demokratische Verwaltung. Dieses Konzept aber setzt sich 1920 interessanterweise nicht durch und in der Republik Österreich galt bis zum Jahr 1962 das oft erwähnte Reichsgemeindegesetz aus dem Jahr 1862, also 100 Jahre lang, noch über die Republik hinaus. Zum Referat von Frau Matzoll wäre auch noch einiges zu sagen, sie ist leider nicht da, nur etwas, was wahrscheinlich auch ein eigenes Thema wäre, nämlich die Frage Zentralismus, Föderalismus. Ich muss sagen, ich bin äußerst skeptisch, ob diese Fragestellung in dieser Schärfe berechtigt ist und ob man etwas sagen kann. Das Oktoberdiplom zählt, ich glaube, zu den föderalistischen Konzepten und das Februarpatent zu den zentralistischen. Ich würde es sogar umgekehrt sehen. Das führt aber hier zu weit, um es zu begründen. Die Frage Zentralismus, Föderalismus ist, glaube ich, viel zu diffizil, um eben nur diese beiden Alternativen immer in Betracht zu ziehen. Dankeschön. Grazie. Altri interventi? E proposte? Concludiamo. Allora la parola ai relatori presenti, se ritengono di dover dire qualcosa. Ecco, perché questi interventi che ci sono stati appunto delle Genzel, sono state delle obiezioni o delle critiche. Ecco. Allora aspetta a me dichiarare. E lo riferirò poi alla professor Mazzola. Ecco, allora, chiusi i lavori, capita in particolare a me, che sono un animale a sangue freddo, di cominciare a scaldarmi soltanto dopo un po' di tempo. Ecco, e quindi di essere adesso nella particolare situazione in cui desidererei cominciare un convegno come quello che stiamo finendo. Ecco. E credo che possa essere anche una sensazione comune ad altri, anche se non in misura così patologica come capita a me. Ecco, credo però che questa sia anche in qualche modo sempre una prova della riuscita del convegno, quando appunto mentre si termina si può cominciare a capire, ecco, diciamo almeno per persone come me, poiché non sono specificatamente esperte della materia, qual è la profondità e la possibile ampiezza dei temi che sono stati affrontati. Ecco, se appunto in questo senso, e questo è ancora una ripetizione dell'invito che ho fatto prima, dando inizio agli interventi, ciascuno dei presenti, ecco, ritiene di poter avanzare delle proposte, di poter far pervenire al professor Schiera, all'università, all'Istituto Storico Italo-Germanico, alla Società Trentina di Studi Storici, delle proposte in questa direzione, ecco, sappia chiunque, ecco, che noi riteniamo il nostro particolare compito, direi preminente nei prossimi anni, portare avanti proprio questo tipo di tematica che riteniamo essenziale per uno sviluppo di un discorso civile e culturale. Grazie e arrivederci. Grazie anche agli interpreti, alle gentili signorine, scusate, ecco, proprio è una grossa gaffa che stavo facendo, perché è stata un'opera.